Shalom e il saluto dei figli del Signore. Shalom, shalom, shalom, è il desiderio che c'è dal fondo del cuore. Shalom, shalom, shalom, per tutto il mondo si proclama con amor. Shalom Aleichem, pace per tutti, io ti saluto nella pace del Signore. Shalom Aleichem, pace per tutti, io ti saluto nella pace del Signore. Shalom, aleluya, gloria a Dios. Shalom, shalom, shalom, e il saluto dei figli del Signore. È il desiderio che c'è dal fondo del cuore.